Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Dalla sveglia alla nanna, potrei intitolare così la puntata di oggi, in cui vi propongo di ripercorrere con me una giornata tipo dei vostri bambini. Giorno dopo giorno diventano grandi e giorno dopo giorno scopriamo che insieme a loro cresciamo anche noi come persone, come genitori. Insomma, è una bella avventura da giocare in team. Oggi a nostra disposizione abbiamo il piacere di avere la tata più famosa d'Italia, tata Lucia, conosciuta come la tata risolvi i problemi, la Mary Poppins d'Italia, insomma. Nel piccolo schermo televisivo dal 2005, quando sulla 7 andò in onda la prima puntata di SOS sì. Tata, ed è stato un grande successo, certo. Penso, 32 anni di insegnamento nelle scuole elementari e medie, 3 figli, numerosi libri che ci hanno aiutato a crescere. Speriamo, parlo come sì. genitori, da Fate i bravi, 0-3 anni, a Spegnete la TV, a Fate i compiti, a Fate famiglia, insomma tata, c'è tutto, meno male che ti hanno inventato. Tutto tranne Padre Pio, mi raccomando. Allora, tata, genitori non si nasce, si diventa, e ci vuole tempo, pazienza, buon senso. Certo. Vorrei che aggiungessi tu gli altri ingredienti di questa ricetta. Tanta voglia di vivere la vita felicemente con i nostri figli, tanta voglia di condividere questa vita. Infatti, dicevamo, è proprio un'esperienza da vivere in team. Insieme, certo, certo. Senti, però, tata, quante volte di fronte al comportamento del nostro bambino ci siamo riconosciuti, no? Magari ce lo siamo detti con il nostro marito, con il nostro certo. partner, e abbiamo detto, guarda, fa questo, però anch'io da piccola ero l'ho uguale. Sempre fatto. E io chiedo proprio ai miei amici da casa di chiamarci, di raccontarci come si sentono simili ai loro bambini, anche magari negli atteggiamenti che non sono proprio da bambino esemplare, ma chiederei anche di raccontarci quali sono i momenti nel corso della giornata in cui si trovano ad affrontare situazioni un po' difficili, ad esempio il momento della nanna quando il pupo fa i capricci, la pappa i compiti. Tata, tu diresti, e so già che me lo dirai, ci vogliono regole, ma esatto. tra il dire e il fare lo sai, perché poi ci sono certo. La stanchezza, si arriva a casa trafelati, la spesa da fare, l'altra mamma da sentire, insomma. Ma poi soprattutto la regola non è mai universale, la regola è la ricetta di come si fa, quindi deve essere scelta nel contesto familiare, in questa squadra che è la famiglia, perché a me famiglia va bene una cosa, un'altra famiglia potrebbe andarne bene un'altra. Quindi famiglia di un tipo, famiglia dell'altra, iniziate subito a chiamarci 800 24 00 24, oggi potete approfittare dei preziosi consigli della tata, ti stanno già salutando i tuoi fan, ad esempio Francesco da Lazio, Carla da Padova, Lucia da Verona, tutti che salutano la tata, ma io questi saluti li giro anche alla dottoressa Lara Lambertini, che è qui in studio con me. Buongiorno a lei, dottoressa, specialista in neonatologia e pediatra all'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano. La dottoressa Lambertini ci aiuterà a capire quali scelte, quali attenzioni dobbiamo avere per aiutare i nostri bambini a crescere bene, nel senso di sani e forti. Dottoressa, anche a lei chiedo di raccontarci dal suo osservatorio privilegiato quali sono i dubbi, i problemi con cui si confrontano i genitori oggi, per i quali chiedono il suo aiuto. Sì, la figura del pediatra è molto cambiata negli ultimi anni. Il pediatra adesso è sempre più specializzato, cioè il pediatra che si occupa della cardiologia, della gastroenterologia, della pneumologia, e spesso si perde un po', come dire, il bambino, perché diventa una gestione un po' a settore. E secondo me è importante educare un po' la famiglia e i genitori a riconoscere quali sono i sintomi e i segni importanti per cui condurre il bambino in ambulatorio, in pronto soccorso, in modo che il pediatra di base, che è un po' il direttore d'orchestra, possa avere il tempo per conoscere veramente il bambino nella sua, come dire, nella sua complessità e poter gestire meglio la salute psicofisica del bambino e non solo le patologie minori. Certo. Certo, assolutamente. Allora noi insieme alla dottoressa Lambertini, insieme alla tata, siamo pronti e direi che dalla sveglia alla nanna avremo tante occasioni da raccontare al nostro numero verde e anche tante situazioni che viviamo quotidianamente. Dobbiamo prendere delle decisioni, fare delle scelte che a volte sono faticose, impopolari, qualche capriccio lo mettiamo in conto, anzi veniamo anche grandi a forza di capricci. Anche i capricci dei grandi stessi, ecco, perché ci sono dei grandi che non si vogliono alzare alla mattina. Allora diteci qual è l'errore che pensate di commettere il momento momento della giornata che vi mette in difficoltà, il consiglio che vi è stato dato magari, certo, dalla suocera, da vostra mamma, e non riuscite a mettere in pratica, un po' perché non ci credete fino in fondo, un po' perché vedete che è così difficile, il vostro bambino continua a fare capricci, ma diteci anche, raccontateci il momento della giornata con vostro figlio a cui non rinuncereste per nessuna ragione al mondo. A volte sono proprio sguardi, momenti, profumi. Abbiamo per voi, per il momento descritto in modo più poetico, mettiamo le virgolette, il libro Fate famiglia della Tata Lucia. 800 24 00 24, chiamateci, raccontatevi e pensate un po' alla vostra giornata. Va a fare pipì, e lavati le mani, la faccia, e lavati i denti. Andiamo un po' di corsa stamattina perché dobbiamo portare a scuola la tua amichetta Maggie e non possiamo fare tardi per via della tua gita. Yuri, torna subito qui, sei tutta bagnata. Ma guarda, stai seminando bagnoschiuma per tutta la casa. Torna qui, dove sei? Non voglio lavarmi i denti, Michi. Me li sono già lavati sabato scorso. Michi, gira che ti cresceranno i funghi in bocca. Bene, così non si comprano al supermercato. Yuri. I denti me li sono già lavati il sabato scorso e il papà subito che dice ti cresceranno i funghi in bocca. Ecco, servono queste sorte di minacce? Ma messe così sono assolutamente inconcludenti, cioè va modificato l'antecedente, cioè organizzarsi prima, creare quel momento in cui ci si lava i denti piacevolmente, così i bambini come gli adulti in questo momento sono sotto stress, per cui ognuno gira ruota lì. Quindi bisogna prevedere la cosa. Quindi già dalla sera prima capire che cosa succederà al momento della sveglia. Certo, e organizzarsi col bambino, soprattutto il bambino a 3-4 anni, è capace di riconoscere i momenti in cui prende queste buone abitudini. Naturalmente se queste buone abitudini sono rinforzate positivamente. Sì, ti leggo la storia, appena hai lavato i denti ti leggo la storia. Quindi facciamo una sorta di baratto. Ma non è un baratto, no. È proprio far vedere al bambino che quello che fa gli porta un beneficio. Sì, posso aggiungere, il bambino veramente è importante che impari a processare le emozioni e spesso non riesce a farlo perché c'è una velocità di passaggio da un'attività, da un'emozione all'altra velocissima. Anticipate al bambino quello che succede, raccontate il programma della giornata perché è l'unico modo per il bambino di poter interiorizzare l'emozione che arriverà, la separazione. Genitori e bambini hanno necessariamente dei ritmi diversi. Per cui certo, bisogna riprendere il passo insieme. Hanno dei ritmi diversi che però per fare famiglia bene vanno organizzati in modo che ognuno abbia i suoi tempi e i suoi spazi. Perché facciamo una sveglia tipo, suona la sveglia. Allora, intanto io penso che un genitore debba sempre svegliarsi almeno mezz'ora prima dei figli. Perché la dottoressa Lambertini vedo che approva. E certo, approvo, perché forza. Così metabolizza il suo risveglio, ha il tempo di svegliarsi, sì, effettivamente. Quindi mezz'ora prima dei vostri bambini, regola numero uno. Deve essere dalla sera prima pronto un tavolo di prima colazione che vada un po' bene per tutti. Anche questo è importantissimo perché il bambino acquisisce quell'abitudine di girare in cucina, di vedere il papà che prende il caffè e quindi è più invogliato anche a sedersi a pucciare il biscotto nel latte, certo, o nel tè. Quindi possibilmente magari mettere in sottofondo una musichetta gradevole, che sia la canzoncina per il bambino piuttosto che, se vogliamo, la musica di Mozart per i bambini, quello che vogliamo, ma una cosa allegra, che sia un risveglio sereno, buongiorno, non un risveglio stressato, guarda che adesso arrivo in ritardo, mamma mia devo anche accompagnarti all'asilo. Sì, perché il bambino si fa il bagno al bambino la sera prima in modo che sia pronto, basta una lavatina veloce e sederino e via. Certo, certo. Dottoressa, la tata diceva apparecchiate la tavola la sera prima, la tavola della colazione, in modo che il bambino trovi già, no? Certo. Un'atmosfera, ma anche visivamente capisca che cosa gli spetta. Certo. Ma ci sono bambini che al mattino fanno colazione, bambini che proprio come molti di noi non hanno fame. Cosa suggerisce in questi casi? Allora, ovviamente dal punto di vista nutrizionale e metabolico la prima colazione è estremamente importante. Secondo me quello che abbiamo detto vale per poter arrivare a fare una buona colazione, cioè il momento del risveglio è un momento difficile per il bambino perché segna l'inizio della separazione dal genitore, per cui allungate i tempi distesi permettono di poter fare una buona colazione e difficili sono gli insuccessi, per cui da preparare la tavola la sera prima, avere un momento condiviso insieme ai genitori rispettando i tempi del bambino che si prepara a salutare i genitori spesso. Quindi la colazione di fretta come la facciamo spesso noi adulti, no? Ma soprattutto via, si fa una per volta, invece deve essere un momento in cui di condivisione. Prendiamoci quindi il tempo, sì. E noi diamo tempo a Massimiliano da Milano e Andrea da Padova di intervenire e di raccontarci magari un frammento della giornata con i loro figli. Massimiliano, buongiorno. Buongiorno a lei e benvenuto. Buongiorno, io ho due gemelle di 3 anni, diciamo, negli ultimi 3 anni io probabilmente sono invecchiato di 10, però a parte questo, sinceramente mi veniva un attimo da ridere, non ho telefonato per questo, ma sentendo la dottoressa che diceva svegliatevi mezz'ora prima delle vostre figlie, io praticamente la notte mi alzo 3, 4, 5, 6 volte, loro si possono alzare in un qualunque orario fra le 5 e mezza e le 7, quando io giuro che quando arrivano da me e mi tirano, la prima che si sveglia cerca di tirarmi giù dal letto perché vuol far colazione, io mi sento eroico a riuscire ad alzarmi, figuriamoci alzarmi mezz'ora prima. No, però diciamo, io in realtà appunto avendo due gemelle ho... e due gemelle incompatibili di carattere, quindi che io, nel senso che non c'è una dominante, hanno interessi completamente diversi, sì. E hanno una conflittualità altissima, io mi trovo a gestire diciamo tutta una serie di situazioni veramente complicate. Vi butto lì una che magari sembra banale, però per me sta diventando un incubo. Quando allora io normalmente prendo la bicicletta, le carico in bicicletta, benissimo, sono riuscito a convincerle che in bicicletta una sta davanti e una di dietro, quindi non devo discutere tutte le mattine, se disgraziatamente piove devo andare in macchina. Sì. A questo punto la macchina magari non è parcheggiata sotto casa, è a 100 metri. Sì. Una delle due comincia a rallentare, l'altra rallenta di più, una delle due dice voglio venire in braccio, l'altra dice anch'io. Se vengo in braccio lei, vengo in braccio anch'io, io devo arrivare all'asilo, sì. Perché dopodiché non mi fanno più entrare, e a un certo punto per disperazione le prendo in braccio e mi prendo questi 30 kg in braccio perché altrimenti non arrivo all'asilo. Certo. Senta, Massimiliano, e non so che cosa fare, quindi magari se la tata aveva può accompagnare Massimiliano, così una gemella la prende lei. Io tata, io suggerirei di organizzarsi con una specie di gara di corsa, se c'è un marciapiede su questa strada fare dei percorsi, magari non so 30 metri, chi arriva prima là, chi arriva prima, in modo da arrivare, in modo che loro arrivino coi loro piedi, non prenderle in braccio, assolutamente. Massimiliano, provi con la corsa. Proviamo con la corsa, il problema è che ci ho provato una corre e l'altra no. un'altra no, e quella che corre sarà gratificata. No, quella che corre si distanzia, continua a correre, la devo, le devo urlare dietro perché altrimenti mi finisce sotto qualche macchina. Certo, certo che due. Senta, se la tata magari un giorno incontra Massimiliano con un uomo con ben due gemelle, la tata viene in aiuto. Andrea, volentieri, che ci chiama da Padova, buongiorno. Buongiorno. Io eccoci ho qua. Due figli, una sì. bimba di 6 anni e un bimbo di 4. Sì. E sono molto fortunato perché sono molto bravi, devo ringraziare molto la trasmissione della tata perché da lì abbiamo attinto molte regole. Sì, ad esempio una regola che ha attinto dalla tata qual è stata, che ha funzionato? L'andare a letto, finita la cena, i bambini si alzano, mani, bocca, denti, pigiamino, si preparano da soli, per anche il piccolo di 4 anni, e si preparano. Premio, poter guardare quel quarto d'ora, 20 minuti di cartoni e dopo vanno a letto. Quindi fatto questa è un'impostazione parte. Tatesca, come dico, però Andrea qualche cosa è rimasto, cioè non è che... No. Che cosa è rimasto da mettere ancora a posto? Mettere ancora a posto è la scuola, la che ha cominciato la scuola e... Che classe fa lei, Andrea? La prima. La prima. problema, ecco che mi sono rivisto in questo, perché era il difetto, il problema che avevo io da studente, me lo sono trascinato fino all'università, non avendo trovato una soluzione per me, figuriamoci se riesco a darla per mia figlia. Il problema è la concentrazione. Lo so. La bimba è brava, si mette anche per lì a fare i compiti, però lei sogna, divaga, e la stessa paginetta la deve leggere 100 volte, ricominciare 100 volte per riuscire a stare su quello che fa, stare sul pezzo, si dice un po'. Sì, certo. È lo stesso problema che ho avuto aveva, io all'università, ecco, infatti, Andrea, e non ho risolto. Allora vi chiedo aiuto, che magari così imparo anch'io ad apprendere un po' meglio. Allora, consiglio per Andrea da Padova, proprio la prendiamo da fate i compiti. Certo. Parliamo di una bambina di prima elementare che... Certo, che ha qualche problema di concentrazione. Allora, in ma questo quando caso... è che si può? Facciamo un... Sì. Così coinvolgiamo anche la dottoressa Lambertini. Io quando è che noi possiamo dire ma non si concentra a sufficienza? Perché i ritmi di attenzione nei bambini, dottoressa, sono molto, molto brevi, sì, assolutamente, e poi aumentano con l'età. Quindi quanto tempo, fino a che tempo può stare il bambino su una pagina da leggere? 5 minuti, 10 minuti? Ma probabilmente la sua domanda è rivolta a capire quando si può parlare di una patologia rispetto a un deficit di concentrazione, non a quest'età. Certo. Ecco, questo volevo sottolineare. Mentre invece ci sono degli escamotage assolutamente fattibili che lavorano sui tempi. Per esempio, se la bambina deve leggere una paginetta, gliela divida in 3 righe per volta e le dica: leggi 3 righe, poi vai a fare una corsa intorno al tavolo, per dire, poi altre 3 righe, in modo che il bambino abbia successo. Perché molto spesso questi bambini che non arrivano alla fine è perché gli sembra che loro non ce la fanno, e in effetti non ce la fanno, perché poi l'adulto gli dice: ma no, ma devi arrivare in fondo, eccetera. Ecco, morsetto invece dopo morsetto. Se si spezzetta, il bambino ha successo ed è più stimolato. Nino, buongiorno a lei, ci chiama da Bologna. Tutti i papà, io aspetto vedi, le mamme, bello. 800 24 0024, i papà mi fanno molto piacere. Nino, ha un consiglio o un dubbio? Sì, no, volevo solo comunicare così, poco fa, diciamo, intanto complimenti per la trasmissione. Grazie, Nino. Volevo comunicare questo discorso una cosa a cui non rinuncerei mai. Sì. Io ho 2 bimbi, uno di 4, uno di 2. Quello più piccolo si chiama Rodrigo. Bel nome. Sì, impegnativo. Impegnativo, infatti, speriamo se lo possa portare bene. No, è una cosa a cui non rinuncerei, poi alla fine, anche se questa mi rende anche un tantino nervoso, così è il fatto che io cucino molto, insomma, mi piace, lo faccio. E lui si mette sempre con la sedia in piedi accanto a me. E, diciamo, in un certo senso mi aiuta, nonostante questo comporti anche qualche pericolosità. Cercherei di farmi aiutare la cucina, certo, perché la cucina è un coltello di plastica invece, ecco, che un coltello. La dottoressa Lambertini mi può confermare che gran parte degli incidenti domestici avvengono proprio in cucina, che non è proprio il posto ideale in cui far stare i bambini. Ma sicuramente, Tata, l'idea di farsi aiutare non è male. L'importante è dargli una situazione magari lontano dai fornelli, seduto al tavolo bene, con degli strumenti adatti a un bambino. Siamo tornati di nuovo in cucina, perché poi alla fine ci troviamo, ecco, proprio cucina, tavola, i nostri bambini, dottoressa, sono tra i più morbidi d'Europa, quindi vuol dire che apprezzano la buona cucina, mangiano troppo? Alceste, per esempio, vuole diventare ministro. Lui è il mio migliore amico, è un po' ciccione e mangia sempre. Questo è l'arista. Queste sono le costolette. Quella è la lombata e quello è il muso. Dicono che non sia buono, invece è buono. Quello che gli interessa del mestiere di ministro è che dice che si fanno sempre delle ottime cene. Bambini cicciottelli mangiano troppo, come abbiamo sentito, o si muovono poco? Mattina avevamo preso le biciclette Di solito facevamo dei giri piccoli intorno alle case, arrivavamo ai bordi dei campi, al torrente secco e tornavamo indietro facendo le gare. La mia bicicletta era un ferro vecchio con il sellino rattoppato e così alta che dovevo piegarmi tutto per toccare a terra. Tutti la chiamavano la scassona. Salvatore diceva che era la bicicletta degli alpini, ma a me piaceva, era quella di mio padre. Se non andavamo in bicicletta, ce ne stavamo in strada a giocare a pallone, a rubabandiera, a un 2-3 stella o sotto la tettoia del capannone a non fare niente. Potevamo fare quello che ci pareva. Macchine non ne passavano, pericoli non ce n'erano. E i grandi se ne stavano rintanati in casa, come rospi che aspettano la fine del caldo. Il tempo scorreva lento. A fine estate non vedevamo l'ora che ricominciasse la scuola. Da Io non ho paura di Niccolò Ammanniti, la descrizione che ci porta in un tempo che sembra assolutamente lontano, certo. Intanto ci siamo goduti questo estratto, quindi pensate anche a voi al tempo dei vostri bambini, a quanto tempo possono dedicare al gioco, al movimento, all'aperto. Alla libertà, a imparare proprio, certo. A crescere confrontandosi con gli altri bambini, prendendo conoscenza del nostro corpo, muovendosi, e o quant'altro tempo invece sono costretti spesso in programmi organizzati da noi, no? La sì. Lezione di inglese, quella di nuoto, sì, sì, e sì, poi sì. Insomma, 800 24 00 24, ricordate che abbiamo il libro della Tata, ti piace Mary Poppins italiana? Non tanto, no, a me no, neanche no, tanto no. Insomma, della nostra Tata, fate famiglia per uno di voi. Essere e benessere. Eccoci qui, siamo tornati insieme, qua con noi in studio la nostra Tata Lucia. Buongiorno ancora a tutti. Ci darà i suoi preziosi consigli, 800 24 00 24, ma ci facciamo aiutare anche dalla dottoressa Lara Lambertini, certo. Specialista in neonatologia e pediatria all'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano. Buongiorno. Cerchiamo di ripercorrere un po' la giornata dei nostri bambini e capire quali sono i momenti che riusciamo magari a gestire con un po' di difficoltà. Aspettiamo i vostri consigli, ma anche naturalmente i vostri dubbi, e aspettiamo anche così la descrizione di un momento particolare della giornata con vostro figlio, con vostra figlia, a cui non vorreste mai rinunciare. Ci sono tante volte delle sfumature che rimangono proprio nel nostro cuore. Io da mamma vi dico, segnateveli su un quadernetto, perché io a distanza di tempo ho ritrovato proprio questo quadernino, certo. Dove appuntavo delle piccole emozioni, che cosa aveva detto la mia bambina, che cosa il litigio che dell'altra, me le sono ritornate. Devo dire che mi sono commossa. 800 24 00 24, questo è un piccolo consiglio da parte della vostra Nicoletta, ma naturalmente i nostri esperti sapranno darvi tanti consigli. Abbiamo gli ascoltatori in linea che ci aspettano, ma a proposito di movimento, certo. E di giochi, tu Tata, sì. Più giochi meno TV, questo è uno slogan che vi rappresenta assolutamente bene. Ho anche scritto il libro Spegnete la TV, ci sono più di 200 cose da fare in casa e fuori senza spendere una lira. Diamone subito un paio, veloci. Per esempio, andare invece di andare in palestra, che costa, andare in un prato, in un giardinetto che c'è anche a Milano e fare le capriole. Siamo tranquilli? Siamo tranquilli, scegliamo le ore magari meno inquinate, perché trovare dei giardini e dei prati a Milano non è semplicissimo. Ecco, io so già che i miei ascoltatori mi scriveranno: nei prati dei giardini c'è la cacca dei cani. Ecco, io non me lo scrivete, che lo so. ecco, al 3492386666 potete invece scrivermi che cosa fate dei salti invece di fare le capriole. Ecco, quanto rispetto alle altre generazioni, i bambini di oggi si muovono molto di meno, dottoressa Lambertini, e soprattutto per i bambini che vivono nelle città, i genitori si attrezzano e fanno fare delle attività sportive, quindi la Tata diceva costano, ma li iscriviamo in palestra, al corso di danza, proviamo a farli giocare a calcio, ecco, e lì proprio per assicurare un po' di movimento. Dottoressa Lambertini, quali sono i consigli che lei si sente di dare ai genitori? Più sport, meno sport, fargli provare diverse attività oppure concentrarsi su uno? Quanto fa bene un paio di volte alla settimana, meno, di più? Io quello che dico sempre ai genitori è che i bambini, soprattutto per alcune, come dire, situazioni socio-economiche, non sono dei contenitori che vanno riempiti, sono dei piccoli individui che vanno ascoltati, per cui lo sport è importante, lo sport inteso in età prescolare e scolare come semplicemente un momento ludico da scegliere insieme al proprio bambino. Scegliamo quello che al bambino piace, scegliamo quello che per il bambino è anche comodo. Io quando vedo le mamme che trascinano il bambino fuori da scuola con un panino in bocca perché dopo 10 minuti devono essere in acqua, quello non è fare sport, quello è far fatica, per cui non c'è poi quello di cui parlavamo, uno sport che vale più degli altri. Ecco, si diceva, Tata, ti ricordi? Iscrivilo a pallacanestro che diventa grande. No. Noi siamo di quella generazione. Quanti, però... quanti bassetti sono stati iscritti a pallacanestro con la speranza delle loro mamme che diventassero alti? Massimo, anche alla dottoressa Lambertini. Tantissimi anni. Non è vero che invece dormendo... sì, ci si allunga. E dormendo ci si allunga, è vero, nel senso che durante il sonno, durante le fasi di sonno profondo, quello non REM, c'è l'ormone della crescita ai picchi più alti. Hai per visto? Cui il sonno, allora facciamoli dormire tanto. Un po', se no diventano dei polpettoni. Massimo, buongiorno da Firenze. Sì, pronto? Pronto, Massimo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Sì. Niente, benissimo. Allora, io... ho un bambino che non le sto a spiegare gli aspetti positivi perché ne ha tanti. Non sono più quelli che invece dovrei aiutarlo a migliorare. Sì. È un bambino che è intelligente e attento. Tendenzialmente però quando è insieme agli altri compagni, specialmente di ricreazione a scuola, ma anche fuori dalla scuola, non gioca a calcio e già per questo è un po' escluso. E poi tende un po' a isolarsi, ha una visione un po' negativa della vita. Io ci soffro a vederlo perché vorrei in qualche maniera entrare in lui. Però, insomma, Massimo, quanti anni ha il suo bambino? Allora, sì, infatti, ha 8 anni. 8 anni. È un bambino più riflessivo, non ama giocare a calcio, che per un maschio, Tata, questo è una sorta di handicap, perché i bambini a quell'età, i bambini maschi sono molto appassionati per il pallone. Certo. Ma che cosa consiglia? Ma io direi di scegliere come famiglia un'attività all'aperto, che può essere anche fare una bella camminata in montagna, piuttosto che qualche cosa in cui il bambino si senta di poter magari essere tranquillo senza nessuno che gli fa pressione. Ma il discorso, i genitori se vedono che il proprio figlio tende ad isolarsi, non fa gruppo, un po', Massimo ce lo racconta, insomma ti magoni un po' perché dici come mai non lo accettano, lui è troppo timido. Come si può capire la strada per qual è la strada per aiutarlo? Il bambino, però, io tante volte dico, ci sono delle persone che sono più riservate, quindi non è neanche che noi dobbiamo tutti i costi fare in modo che il bambino diventi come noi pensiamo che sia la felicità di quella persona. Diamogli tempo a educare, da educere, tirar fuori. Questo bambino magari sarà un osservatore, una persona che sa scegliere di più. A volte la persona che sembra più riservata è quella che in realtà ha un carattere forte di suo e quindi fa un po' quello che vuole. Ecco, quindi non insistiamo sul bambino, facciamo capire al bambino che per noi il suo atteggiamento è sbagliato, a rischio, problematico, perché dottoressa... non facciamolo capire, ma come dire, stiamo attenti che non lo sia, certo. Ascoltiamolo, ci sono sicuramente, come dire, esiste sicuramente un carattere, per cui l'essere socievoli o l'eloquio, l'avere capacità più o meno diverse nelle relazioni, però potrebbe essere un segno di un disagio, di un qualcosa che funziona meno bene, per cui ascoltiamolo e magari alleniamolo un po', per esempio invitando a casa nel pomeriggio a turno un compagno o due, vedere se lui nel piccolo piccolo si relaziona bene ed è sereno e contento, poi a poco certo. aumenterà questa capacità di relazione. Quindi questi sono dei piccoli consigli di buon senso per bambini timidi o riflessivi. Sì, certo. E noi andiamo a Marina, che ci chiama da Milano. Marina, buongiorno, buongiorno, una mamma. Buongiorno, grazie per questa bella trasmissione. Buongiorno a lei, Marina, che ci racconta? Ma io volevo portare un po' una testimonianza. Sì. Rispetto all'addormentamento. Un po', non so se può essere un contributo, però io ricordo che avendo avuto una bambina nata a pretermine, il momento del distacco, del far addormentare il bambino da solo, è stato veramente un momento delicato, faticoso. E solo dopo mi sono resa conto che probabilmente il problema era più mio che non forse, o meglio, era di tutte e due, ma senz'altro chi lo viveva in maniera più forte era lei. Ero io. E per cui anche tutte le varie tecniche del va bene, ti leggo la storia, però poi ti puoi addormentare da sola, lascio la lucina accesa, però poi ti puoi addormentare da sola, vado via 10 minuti, poi magari ritorno, ti lascio la manina, esatto. Ti metto il sacchiotto. Esatto, con tutte le varie sfumature, però effettivamente mi sono accorta che il momento ha cominciato a funzionare solo quando io mi sono accorta che era più faticoso la parte di distacco mia che non certo. forse quella dall'altra parte. E quindi per capire questa cosa, però a volte da soli si fa fatica, ecco, ad arrivarci, quindi a volte anche sentire un parere manca un po', magari questi momenti in cui anche fra mamme, no, si riesce un po' a condividere, e a condividere vuol dire anche semplicemente a poter dire una fatica, una difficoltà. Certo, un po' un confronto, ed è quello che fa un'amica, Camila Raznovic, che è in linea con noi nel suo programma Mamma Mia che domenica. Ciao Camila. Sì, buongiorno, ciao a tutti. Due programmi, Mamma Mia ciao. Che domenica sulla 7, Mamma Mia che settimana sulla 7D, da lunedì a venerdì. Ecco, esatto, un programma sì. che nasce un po' per sfatare i luoghi comuni che ruotano intorno alla famiglia. Sì, esattamente, volevamo sfatare un po' e anche insomma prenderci un po' in giro noi mamme, noi genitori, che a volte ci prendiamo un po' troppo sul serio e soprattutto ci dimentichiamo che siamo, prima di essere genitori, siamo anche degli esseri umani. Assolutamente. E per cui con tutte le nostre pecche, i nostri errori, ecco. Essere e benessere. Camila, ci sei, vero? Allora, io avrei proprio bisogno da te. Abbiamo sentito i consigli della nostra tata, abbiamo sentito i consigli della nostra dottoressa. Io vorrei che tu parlassi alle mamme all'ascolto, mamme che come te sono prese tra mille impegni, il lavoro, l'organizzazione della casa, i bambini, mamme giovani. Tu come te la cavi con Viola? Tante volte proprio la necessità aguzza l'ingegno, per cui magari troviamo noi mamme degli escamotage, facciamo delle cose che possono servirci a, così, a far crescere i nostri bambini. Sì, allora devo dire che io Viola sono molto presente per Viola, e spesso questo vuol dire portarmela in giro con me. Sì. Se devo andare, ma comunque anche nei viaggi, siamo state a Londra a Natale perché volevo che lei vedesse altre città, già da piccola per me è importante. Ovviamente il problema è come non farle annoiare, anche soprattutto quando sono nel passeggino. Allora, dato che lei, perché va all'asilo, vede gli altri bambini e poi ormai sono in contatto, quindi dolci, dolciumi, caramelle, ciupa ciupa, però vabbè, io sono contro e non voglio. Sì. Però è difficile far capire a un bambino no, perché non voglio neanche causarle un trauma che poi dopo a 10 anni, quando potrà, mi svaligerà i negozi di dolciumi, quindi non voglio dargli un complesso. Allora ho scoperto queste fantastiche, insomma io le ho sempre mangiate, ma ho scoperto che anche a lei piacevano, perché gliele ho fatte assaggiare, pezzettini di frutta secca, si vendono in qualsiasi negozio un po' di alimentare, un po' magari biologico, alternativo, quindi frutta secca misto a noci, ovviamente scongiurata l'allergia, cioè questo va fatto certo. dopo i 2 anni, quando si capisce che il bambino, provando prima la noce, devo dire che ad esempio con il cocco, il mango secco, la banana secca, il fico, va fuori di testa. L'hai conquistata. L'ho conquistata, lei me le chiede, ha smesso di chiedermi dolciumi e caramelle, perché comunque sono un minimo dolci, ma sono nutrienti, sono molto più sane. E diciamo, ho sostituito quel dolciume artificiale con un dolciume più naturale, ovviamente moderatamente, cioè bisogna darle in piccole quantità, perché ovviamente la frutta secca può essere sì, certo, però Camila, tu ci racconti una cosa assolutamente fondamentale, che i bambini sono degli sperimentatori. Noi tante volte invece li blindiamo dicendo a loro piace questo e quest'altro non gli piace, invece dobbiamo in qualche modo assecondare un po' la loro voglia di esplorare, anche quando ci sembra che sia ridotta a zero, provare a introdurre delle nuove abitudini alimentari, come ha fatto Camila. La dottoressa Lambertini, vedevo che annuiva, le piace. Sì, sì. Apprezzo, Camila, sei stata promossa. Dai, grazie, che questa volta male. È fatta. Brava. Dai, tra l'altro, Camila, scusami. Sono stupita, velocissima, che settimana scorsa ha voluto assolutamente provare, noi avevamo in casa, che mi aveva portato un amico, e lo zenzero candito. E gli ho detto, amore, provalo, guarda che ti pizzicherà un po'. Niente, l'ha provato, le è piaciuto, me l'ha richiesto, ovviamente non va dato tarda sera perché è un eccitante, però la mattina, al mezzogiorno, a merenda, mia figlia mangia 2 anni e mezzo pezzettini di zenzero candito che fanno benissimo. Che tra l'altro ha proprietà, non so se quello candito, ma lo zenzero ha anche proprietà digestive e antinausea. Senti Camila, tra l'altro tu domani, festa della donna, puntatone. Sì, facciamo uno speciale sulla 7D e tra l'altro sarà un orario un po' particolare, perché invece di andare alle 17.40 come al solito andremo alle 23.15, quindi seconda serata sulla 7D, e andiamo in seconda serata perché abbiamo voluto dedicare a noi donne e anche all'intimità di coppia, diciamo, la puntata. Quindi cosa succede, dato che sappiamo che è un nodo fondamentale, assolutamente, la coppia può andare in crisi dopo un bambino, vuoi per la stanchezza, vuoi perché la mamma diventa solo mamma, vuoi perché... Insomma, abbiamo cercato di parlare di noi mamme, non solo come mamme, appunto, ma come donne. Anche come donne. Camila, un abbraccio, baci. Grazie a Viola e al tuo pancione. Grazie. Allora, io vorrei salutare Pino Pace, che è in linea con noi. Pino, buongiorno. Ciao, autore di un libro molto carino che io volevo proporvi, perché vorrei suggerirvi questa sfida da fare con i vostri bambini. Un gatto nero finì in candeggina. Pino Pace ci insegna a fare dei piccoli componimenti in versi giapponesi. Questa è un'idea che sicuramente piacerà alla tata Lucia, che dice sempre giocate con i vostri bambini, stimolateli, fate delle cose. Pino, allora, si chiamano haiku, abbiamo veramente un minuto, perché voglio leggere la mail, che è una mail che mi è arrivata, a cui farò dare il a cui farò arrivare a casa il libro della tata. Vai, sì, Pino, allora, haiku. È un'antica forma di poesia giapponese, naturalmente non l'ho inventata io, l'ho importata, diciamo, come hanno già fatto delle altre persone. Prima a me è piaciuta una cosa che ha detto la tata Lucia, che è la regola e la ricetta di come si fa. Per fare gli haiku ci va una ricetta, che sarebbe fare, sono delle piccole poesie di soli 3 versi, che hanno 5 sillabe nel primo verso, 7 sillabe nel secondo e altre 5 nel terzo verso. Si fanno sempre così. 5, 7, 5, facile sillabe, perché la dottoressa Lambertini vedo che non ha capito. L'ho presa in castagna. Allora, dai. Vuoi ne dico una? Sì, sì, sillabando. Allora, guarda, cosa? La sveglia tace, musica in cucina e domenica. Questo è un haiku, il primo verso è fatto di 5 sillabe, il secondo di 7 e il terzo di 5, sono tutti quanti fatti così. E non sono in rima, io pensavo in giapponese. Non sono in rima, ma questo è un vantaggio, perché come suggerisce Pino, sono dei piccoli componimenti che possiamo fare insieme ai nostri bambini, perché i versi e la rima sono molto più difficili, per cui ritornando al nostro libretto, Pino, e nel tuo libro Un gatto nero in candeggina finì insegni proprio a come fare questi piccoli componimenti, esatto, che hanno il vantaggio, secondo me, per questo ho chiesto a Pino di intervenire, di aiutare i bambini a fissare un dettaglio, che può essere un profumo, come fanno in Giappone ad esempio, un odore, un'immagine, e a trasformarle. Questo sicuramente aiuta loro e aiuta noi, possiamo anche fare una piccola gara di haiku. Grazie a Pino Pace per essere stato con noi. Grazie mille a voi. Allora, io scusate, ma mi sono persa questa mail che mi è piaciuta un sacco. Dove l'ho messa? Eccola qua. C'ho tempo? Posso? 30 secondi. Intanto ce la manda Enrico a essere benessere@radio24.it. Il momento a cui non vorrei rinunciare con mia figlia di 4 anni e mezzo è quello del mattino, quando dopo che la mamma l'ha lavata e vestita ed uscita di casa per prendere il treno, noi due usciamo di casa per andare all'asilo con il rito della scarpa di Cenerentola, che tutte le mattine serve per infilarle la scarpa destra, il prenderla per mano fino alla macchina, la preghiera durante il tragitto, l'ingresso baldanzoso nella scuola, il bacio sulla porta della classe e l'immancabile saluta con la sua manina dalla finestra. Grazie e buona giornata. Grazie ad Enrico che ci ha mandato, non è un like, ma ci ha toccato il cuore. Per lui fate famiglia della tata Lucia. Grazie a voi che siete intervenute, alle nostre due ospiti. Scaricateci, scriveteci su Facebook, seguiteci su Twitter e domani vi aspetto per Mangia con me.